Cipro, la guerra fredda. Estate 1974, i cattivi, le vittime, gli 007 e i giocatori di scacchi. Nelle sue memorie Kissinger ricorda come all'interno di una NATO in piena guerra fredda si sarebbe potuto sviluppare un conflitto tra due stati membri, la Grecia e la Turchia, circa la divisione dell'isola. Secondo Kissinger, il presidente arcivescovo Makarios poteva essere ritenuto la causa immediata della maggior parte delle tensioni cipriote. L'arcivescovo Makarios III era colui che a 37 anni nel 1950 aveva ottenuto l'indipendenza di Cipro da Londra. Se quindi, secondo Kissinger, l'autorità civile, democraticamente eletta, era la causa immediata delle tensioni, la sua rimozione era evidentemente il nobile obiettivo da perseguire. Troppo carismatico Makarios, però, per sperare di metterlo semplicemente da parte. Quando nel maggio 1974, due mesi prima degli eventi di Nicosia, Kissinger ricevette un memorandum dall'addetto a Cipro del Dipartimento di Stato, Thomas Boyat, riassumeva le ragioni che gli facevano ritenere che un attacco su Cipro fosse imminente. Kissinger ricevette la nota mentre si trovava sull'aereo tra Siria e Israele, ad una mezz'ora di volo da Cipro. Tuttavia, ritenne opportuno desistere dall'inviare alcun passo diplomatico per calmare le acque. Il colpo di Stato ebbe luogo, nominalmente per mano del gruppo terrorista nazionalista greco EOKB, ma le cose erano chiare, il colpo di Stato era stato istigato da Atene e compiuto con le truppe regolari greche, violando così ogni trattato esistente concernente la situazione cipriota. Kissinger poi si impegnò personalmente su diversi fronti, da un lato cercava di evitare a tutti i costi il ritorno di Makarios, dall'altro cercava di opporsi ferocemente a che la Turchia e l'Inghilterra, che sull'isola aveva un contingente a garanzia dei trattati di Cipro, intervenissero militarmente per reprimere il colpo di Stato. Quando poi però la Turchia, 5 giorni dopo l'invasione greca, il 20 luglio 1974, con 40.000 soldati e con un arsenale bellico messo a disposizione dagli USA, ebbe occupato brutalmente il 40% del territorio cipriota e preso possesso del 70% degli interessi economici del paese, Kissinger si adoperò personalmente per evitare che Ankara fosse condannata per questa flagrante violazione dei trattati internazionali. Gli americani avevano iniziato a pensare all'idea di dare alla Turchia l'area nord dell'isola fin dal 1964, quando erano preoccupati che il materiale bellico presente sull'isola potesse finire in mano sovietica, se gli inglesi avessero deciso di abbandonare le proprie basi. Ma gli USA temevano soprattutto che l'arcivescovo Makarios potesse diventare il Fidel Castro del Mediterraneo, ed è in quest'ottica che i servizi americani, attraverso contatti con la destra golpista italiana in Veneto, fanno arrivare armi al generale Grivas, capo dell'EOKB. Da allora, quello che si può dire con certezza è che tutti i colloqui di pace sono iniziati in maniera ottimistica, persino i primi, quelli tra i leader storici Denkac e Makarios nel 1975, e non hanno concluso nulla, compreso gli ultimi, organizzati in Svizzera nel marzo scorso. Allora Annan ha dichiarato: abbiamo raggiunto la fine della strada per segnalare la fine di mesi di tremendi sforzi per far scendere a più miti consigli le parti in vista dell'accesso europeo. Fallito tutto, la parola ora è lasciata alla popolazione, che questo fine settimana vota pro o contro il piano di pace proposto da Kofi Annan. Da Zurigo, Tito Gandini, reporter associati per Amisnet.